Swimming in the Ocean, quindi nuotando nell'oceano, questa bella canzone apparteneva al repertorio dei Shooties Groove 1994, credo album d'esordio intitolato Gemini in Vicious Environments, e questo è quella categoria proprio di inizio anni 90 che travolta dal groove e dal successo di band come Rage Against the Machine. Ricordiamo anche i Downset, anche gli Shooties Groove, che peraltro hanno suonato insieme proprio a San Colombano all'Ambro, e allora è stata una grande festa. Fondevano sapientemente la sonorità rap, hip hop, con il metallo, con il funky, con l'attitudine anche un po' socio-politicizzata del punk, e quindi Shooties Groove, questa era In the Ocean. Allora, abbiamo ascoltato i Franti prima, per i quali mi sono arrivati fortunatamente dei ringraziamenti, quindi ricordiamo celebre insomma importante e seminale formazione torinese che negli anni 80 insomma ha detto qualcosa a livello underground. Adesso prendo in mano la mail che ho ancora trascurato per tutta la prima ora e mezza di Easy Rider. La mail è mox@radiorockfm.com, mi state scrivendo lì, un bel po' di amici mi scrivono. Partiamo da Mirko, che mi chiede qual è il più bel album della Formula 3, e poi consiglia il film Padre Padrone, premiato al Festival di Cannes 77. Grazie del consiglio sul film. Formula 3, prendiamo in considerazione solo i primi quattro album, quelli della formazione originale, quindi prima della reunion avvenuta nel 90. Gli album erano Desire nel 69, del 70, Formula 3 ascoltato oggi con Nessuno Nessuno del 71, poi abbiamo Sognando e Risognando del 72 e La Grande Casa del 73. Questo argomento è stato affrontato abbondantemente in compagnia di Alberto Radius durante quella celebre puntata di Easy Rider in cui abbiamo fatto una retrospettiva sulla sua carriera. Sono tutti e quattro molto belli questi album. Personalmente, se ti piace di più il prog, ti consiglio Sognando e Risognando, sia il terzo album del 72, e anche La Grande Casa del 73, che è quello più cantautorale ma molto bello, molto suonato e ben orchestrato. Desire è un album fondamentale per la carica hard rock e anche un po' hendrixiana che contiene, e anche Formula 3, quello ascoltato oggi, è bellissimo. Quindi sono quattro album tutti a loro modo belli. Voglio salutare l'amica Ale Fabruto, Ale Makes Ugly, ribattezzata così dal sottoscritto. Serata memorabile, solo voi ci fate sentire veramente in famiglia. Ecco, probabilmente la serata non è quella di questa sera, ma è quella ancora di venerdì scorso della Rock FM All Stars Band, quando poi scrivono anche altri amici come Alberto, che dice quanto è bello accendere la radio e sentire la sua dente calda voce, la mia. Aspettavo una vita, una puntata sul punk o sull'hardcore. Beh, questa non è proprio concept sul punk e sull'hardcore, ci sono un po' di ingredienti. E poi aggiunge grandi gli Straight Edge. Poi saluto Ermurena che dice grande perché sei vegetariano come me, sono amareggiato e deluso per l'epilogo della vostra / nostra radio. È giusto, è corretto definirla così, perché è la nostra radio, assolutamente unica, che ci permette di conoscere e ampliare i nostri orizzonti musicali. Spero sempre che ci sia il miracolo. Un abbraccio grande anche a te. Poi un altro commento: era anche ora che facessi una bella puntata sul punk, tra l'altro prima che Rock FM chiuda sarebbe bello una puntata anche su Loi. Guarda, Loi è un altro di quegli argomenti che si possono sicuramente affrontare, però ripeto, non si può fare due ore solo di musica Loi, perché Easy Rider è molto più eclettica. Un abbraccio anche a Roby da Caravaggio, un salutino veloce. La richiesta della playlist da parte di un altro amico che si firma Cece e dice: ma non posso avere la playlist, non c'è modo per ricevere le playlist di tutte le puntate, almeno mi compro tutti i dischi che hai passato, e forse è anche l'unico modo per non rimanere mai senza Easy Rider. Allora io ti do il consiglio che mi arriva direttamente dagli ascoltatori che incontro, che ho incrociato in questo periodo di campagna elettorale, insomma, che siamo nelle piazze con la Rock FM All Stars Band. Moltissima gente mi dice: sai che io passo il tempo ad ascoltare la trasmissione prendendo appunti. Ecco, questo è il consiglio che ti posso dare, perché le playlist purtroppo non sono disponibili. Sento una carezza sul collo, sono arrivati gli amici Matthews e Faulisi, e quindi li ringrazio per la loro puntata, che dopo sarà ricca di ospiti come spesso accade. E a proposito di ospiti, io vi annuncio che quelli che sto per farvi sentire, probabilmente Forse il penultimo pezzo per questa sera è un pezzo dal vivo registrato nel 74 nella città di New York, quindi il gruppo è il gruppo italiano più importante della storia del rock. Io vi faccio ascoltare Alta Loma, questa meravigliosa improvvisazione. Loro si chiamano PFM e saranno ospiti proprio qui a Rock FM, forse ad Easy Rider, comunque nella serata del 27 maggio prossimo. Sarà un martedì e li ritroverò in mia compagnia. Per ora li ritrovate anche voi con questa bellissima Alta Loma dal vivo. Il violino di Mauro Pagani, un momento veramente catartico per il pubblico americano. Questa era Alta Loma, una lunga improvvisazione eseguita durante il loro, forse il primo tour americano, quello del 74, e poi testimoniato sull'album pubblicato PFM Cook in America e Live in USA per quanto riguarda il mercato italiano. Intanto sentite in sottofondo delle voci a festa, perché tra un po' ci sarà la festa di Garageland. Dopo Radio Spettacolo Easy Rider, Radio Spettacolo continuerà con gli amici Faulisi e il Matthews e i loro ospiti. Io voglio salutare nel frattempo gli altri amici che continuano a scrivere, quindi qualcuno che dice: fa molto piacere sapere che anche gli americani abbiano goduto ascoltando la PFM. Poi saluto Mico, poi D&D da Firenze, che dicono: da giugno dovrò vivere nell'ignoranza, chi mi darà queste botte di cultura? Ma soprattutto Graziella che mi dà occasione per un po' per tirarmela, dice: puoi mandare il pezzo dei New Trolls che hai fatto sentire venerdì? E allora, a proposito dei New Trolls, ti dico che come martedì avremo ospite la PFM, che abbiamo ancora in sottofondo. Mercoledì avremo ospiti proprio i New Trolls, quindi torneranno da me insieme a Mox anche i New Trolls, parleremo con loro, probabilmente suoneranno qualcosa anche loro direttamente qui negli studi di Rock FM. E poi mi chiede se riesco a rintracciare Carta Straccia di Radius. Allora, questo è il momento in cui me la posso tirare, perché io posso affermare di avere 4 copie differenti di quel disco: la versione vinile, la versione 45 giri che è sempre vinile, quindi il singolo di Nel Ghetto che era il singolo trainante dell'album, la versione CD dell'album e la versione cassetta originale dell'album. Quindi si tratta sicuramente di un disco per me abbastanza importante. Non capisco, vuoi sentirlo? Va bene, allora provvederemo, nei prossimi giorni ti farò sentire un pezzo da Carta Straccia, proprio di Alberto Radius. E adesso, visto che di Garage ci accingeremo a parlare, quantomeno lo faranno i nostri colleghi, io vi faccio ascoltare un brano assolutamente Garage, cioè The Black Mask, il brano in cui i nostri amici svedesi International Noise Conspiracy durante i loro concerti si mascherano, cioè si mettono dei passamontagna neri e alzano il pugno al cielo. Questi sono gli International Noise Conspiracy nel 2001, The Black Mask. Di Radio Spettacolo si parla, e anche di musica spettacolare, e quanto si sente che questi sono nati dalle cenere dei Refused. Proprio il timbro vocale è sempre stato un marchio di fabbrica per l'amico Dennis, ma è anche il marchio di fabbrica la prossima ora in vostra compagnia fino a mezzanotte, grandissimo rock and roll, vi ho detto, in compagnia del Matthews e di Maurizio Faulisi, che voglio salutare. Voglio anche salutare gli ultimi amici che scrivono al 335-100-7777 come Alfonso da Firenze, probabilmente in lacrime per le emozioni durante l'ascolto di Alta Loma della PFM. Da parte mia è tutto, io voglio semplicemente ricordarvi che nell'appuntamento di domani sera ci sarà questo straordinario ospite, un maestro per quanto mi riguarda, quindi il giornalista Beppe Riva, col quale affronteremo un po' gli argomenti decadi 70 e 80, con entrando un po' nel merito della storia dell'hard rock ed in parte dell'heavy metal. E poi vi ho già annunciato altri ospiti, Bernardo Lanzetti lunedì prossimo, la PFM il 27, i New Trolls il 28. Venerdì ci sarà questo, una puntata speciale con la redazione di Easy Rider, per cui ascolteremo veramente di tutto. Io vi ringrazio come al solito per essere stati all'ascolto, per essere intervenuti alla bella serata di venerdì, ce ne saranno altre, rimanete con noi. L'abbraccio circolare da parte di Mox vi lascio nelle mani del Matthews e del mitico Maurizio Faulisi. Rock FM ha presentato Easy Rider, un viaggio musicale pensato e condotto da Mox Cristadoro.